Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Il sogno della Champions League, la coppa dalle grandi orecchie che premia i più grandi campioni, i più forti, i migliori anche di quel momento, che spesso però coincidono anche con i migliori della storia del calcio. Questione di leadership viene, mi viene in mente come tema di questa puntata di Olimpia, perché quella coppa è stata spesso sollevata da campioni che, oltre a essere grandi sul campo di calcio, lo sono stati anche nello spogliatoio e al di fuori del campo di gioco. Lo ricordo, Coppa Campioni, Champions League, che è in tour in Italia grazie a Unicredit fino al prossimo 22 ottobre, e lei è la grande protagonista di questa puntata di Olimpia, insieme a uno dei suoi più grandi cantori. E a fianco a me Stefano Tirelli, mio compagno di viaggio quest'anno qui ad Olimpia, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Professor Tirelli, direi che quella coppa esercita un fascino tale che fa uscire fuori dai campioni che solo l'avvicinano delle energie anche mentali insospettabili. È un simbolo. Essendo un simbolo così importante, è chiaramente anche un elemento attivatore naturale di tutte le nostre capacità psicofisiche a livelli massimali. Quindi a volte abbiamo bisogno di elementi esterni per poter attivare il meglio di noi stessi. In questo caso, essendo una sorta di archetipo che ci riporta alle gloria, alle gesta dei grandi atleti di un tempo, questa energia viene da sé, è una magia. Io la ritengo proprio una magia, questa simbologia della coppa. E allora, quanto ci sia di magico in questa coppa, ben lo sa il nostro ospite di oggi, che quel trofeo l'ha alzato al cielo in una magica notte dell'Olimpico di Roma qualche stagione fa. Sentite un po'. Ricolloca il pallone a terra per il quarto calcio di rigore in favore della squadra dell'Ajax. Il pubblico di marca bianconera, la parata di Peruzzi, sempre tolto Peruzzi, si tuffa alla sua sinistra e neutralizza anche il calcio di rigore di Siloe. La Juventus è vicinissima alla conquista della Champions League, della Coppa Campioni. Seguiamo adesso Juric, l'uomo incaricato di consegnare a Lippi e ai suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni 95-96. Rincorsa lunghissima, parte da fuori area, Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Lippi che vanno ad abbracciare Peruzzi, grande protagonista della serie dei calci di rigore. Due volte ha negato, prima a David e poi a Siloe, la gioia del gol dagli 11 metri. La Juventus conquista la Champions League. Gianluca Vialli, ben trovato a Olimpia, la città dello sport. Ciao Dario, ciao a tutti. Gianluca, sempre bello immagino ritrovare, insieme alla Champions che sollevasti al cielo in quella notte e che hai ora accompagnato nel suo viaggio a Torino, anche l'affetto dei tifosi. Sì, sì, è sempre molto piacevole perché chiaramente suscita ricordi fantastici. Poi Torino è la città in cui ho vissuto per 4 anni, anche se devo dirti che c'è molta curiosità, molta eccitazione a parte di tutti quando si avvicinano alla Coppa, però soprattutto per gli Juventini i ricordi delle ultime finali non sono straordinari, e quindi insomma la si guarda, la si vorrebbe, però c'è anche molto rispetto. Eh già, ricordiamoci cosa è accaduto qualche mese fa a Cardiff. Uno contro uno, arriva anche Carvajal, Cristiano Ronaldo prova, rete! Cristiano Ronaldo ha colpito, incredibile, sempre lui al 20esimo, Real in vantaggio. Casemiro prova da lontano, rete! Incredibile, Casemiro, forse con una leggera deviazione, beffa Buffon, 2-1 Real Madrid. Ancora verso Modric, sul fondo, riesce a metterla in mezzo, Ronaldo, rete! Cristiano Ronaldo sbuca come un fantasma alle spalle di tutti, incredibile, 3-1. Numero su Lemina, lo fa fuori secco, Marcelo prova a metterla in mezzo, all'indietro e c'è il gol di Asensio, pesante. Trionfo Real Madrid. Pesante questo 4-1, Sandro. Eccolo qua, il trionfo del Real Madrid sulla Juventus nell'ennesima Champions svanita per i bianconeri. Ecco Gianluca, pensi che ci sia oggi qualche giocatore nello spogliatoio della Juventus che stia pensando addirittura che sia quasi meglio non arrivarci più alla finale, piuttosto che perderla ancora? No, non credo, anzi, spero che, nonostante rispetto allo scorso anno sia molto più tranquilla, no? Non ho sentito nessuno dire che si punta alla Champions, e quindi credo che la batosta di Cardiff abbia un po' segnato tutti, ma credo anche in un senso positivo, perché non parlarne farà sicuramente bene, però fossi un giocatore della Juve vorrei arrivarci in finale, se non altro per la legge dei grandi numeri, perché comunque poi alla fine le cose sono destinate a cambiare, e devo dire che la Juve se lo meriterebbe, perché arrivi alla finale una, due, tre, sei volte, e poi vuol dire che insomma prima o poi il destino te la deve riconsegnare. La tua Juventus alla vigilia della finale con l'Ajax a Roma sentiva sulle spalle la scimmia delle finali perse? No, non sentivamo assolutamente nessun tipo di condizionamento psicologico, anzi avevamo uno stimolo grandissimo, e cioè consegnare ai tifosi e alla società una coppa diciamo diversa rispetto a quella vinta all'Eisel con la tragedia purtroppo della morte di molti tifosi juventini, quindi avevamo proprio tutti avevamo voglia di festeggiarla finalmente una Coppa dei Campioni nel modo in cui merita. Io personalmente sentivo tantissima tensione, perché avevo già fatto una finale con la Sampdoria 4 anni prima a Wembley, sapendo che sarebbe stata la mia ultima partita con la maglia blucerchiata, e sapevo che sarebbe stata l'ultima anche con la Juve, perché la dirigenza mi aveva già comunicato che poi non mi avrebbe rinnovato il contratto, quindi ero teso. Poi all'epoca, sai, per vincere una Champions ci volevano 2 anni, dovevi vincere prima il campionato e poi giocavi in Champions, adesso puoi arrivare quarto e te la giochi, quindi è forse paradossalmente più semplice, e quindi ero teso, e tant'è vero che poi quando l'ho alzata devo dire più che una gioia è stato un sollievo, perché mi ero tolto un peso personalmente. Quindi mi stai dicendo che assaporasti di più il sollievo del dovere compiuto piuttosto che la gioia del trionfo? Assolutamente sì, anzi le vittorie poi si dimenticano subito, e invece le sconfitte te li porti dietro, ma devi utilizzarle come stimolo. E da leader, come eri sia nella Sampdoria che nella Juventus, rimane più la memoria della vittoria o quella di una sconfitta amara e bruciante come quella dei Doriani nella finale di Wembley col Barcellona? Sicuramente la seconda, cioè la sconfitta brucia di più, perché quando ottieni una vittoria ritieni di aver fatto il tuo dovere, e invece perché la leadership non è altro che un servizio che tu metti a disposizione degli altri, quindi sei al servizio degli altri, e quando non arriva il prodotto allora poi senti di non aver fatto il tuo dovere. Quando invece il prodotto arriva dici vabbè, ti dai una pacca sulla spalla e dici ho fatto quello gli altri si aspettavano che facessi, nulla di più. Allora Gianluca, prendiamoci un attimo di pausa, qui sempre a fianco a me il professor Stefano Tirelli. Professore, ci vuole davvero una carica emotiva particolare per andare a giocarsi solamente, poi vincerle è tutt'altra cosa, ma anche solo andarsi a giocare una coppa del genere. Sì, allora è un privilegio per pochi. Noi abbiamo una cultura, parlo della cultura occidentale, che è quella comunque della concezione della vittoria come elemento massimo di espressione delle nostre capacità. Arrivo anche io da altre culture, di studio, proprio in Oriente, dove l'elemento caratterizzante non è tanto l'atto finale, vittoria o sconfitta, ma il processo attraverso cui io, dal momento in cui traccio un obiettivo, arrivo alla realizzazione dello stesso, alla non realizzazione dello stesso. Cosa che determina la crescita di una persona, e quindi in questo siamo abbastanza differenti. E allora da qui ripartiamo fra qualche istante, sempre qui a Olimpia, la città dello sport. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Ah, Ancora insieme qui a Olimpia, ben ritrovati. Il fascino della Champions League e i segreti, i misteri, le emozioni della carriera di un grande campione che quella coppa l'ha sollevata al cielo da vincente, ma ne ha conosciuto anche i risvolti più amari, avendola in un'altra occasione solo sfiorata. Gianluca Vialli, ben ritrovato qui a Olimpia, la città dello sport. Ciao Dario, ciao a tutti. Champions League vinta con la Juventus nel 96, Champions League persa invece nel 1992 a Wembley con la Sampdoria, nel modo più atroce mi viene da dire, ai supplementari contro il Barcellona, che vinse solo grazie a una punizione terrificante di Ronald Koeman. Attenzione! Koeman toca sotto, fa l'aereo, picca Koeman! Gol! Gianluca, la vittoria di Roma bastò ad attenuare l'amarezza di Wembley? Devo dire che un po' insomma, la serata dell'Olimpico mi ha tolto qualche insoddisfazione, qualche incubo, però poi quando ci penso ai gol sbagliati anche mi dispiace anche se poi fosse, insomma, era quasi più logico che lo vincesse il Barcellona quel titolo. Perché poi insomma il Barcellona dopo essersi preso quella coppa, insomma, abbiamo visto tutto quello che è successo. A cosa rinunceresti oggi, per assurdo, per poter ridare quella coppa ai tuoi compagni di allora? Ma guarda, non lo so, non credo che baratterei un altro trofeo, però no, perché poi comunque sono sempre, cioè la storia è sempre bella, anche quando non finisce come molti sperano, è sempre bello arrivare là, è anche bello perdere, perché comunque fa parte del gioco, aiuta a crescere e poi ti dà gli stimoli per lavorare più duramente, per ottenere altri traguardi. Quindi mi è dispiaciuto, però poi insomma andava bene così. Per noi sarebbe stato un punto d'arrivo, ecco. Per il Barcellona è stato un punto d'inizio, per noi sarebbe stato un punto d'arrivo, il punto esclamativo su diciamo una storia affascinante, entusiasmante, e vabbè, insomma, abbiamo comunque vinto lo scudetto, la Coppa delle Coppe, un sacco di altre cose, va bene lo stesso. Nella tua carriera al Chelsea sei stato anche allenatore e giocatore. Ecco, in una squadra anche l'allenatore può essere il leader? Sì, deve essere il leader, deve essere il punto di riferimento. Tu hai detto che ero un leader da Juventus, ma io avevo un messia che era Marcello Lippi, e quindi voglio dire, poi magari tu sei il leader di un gruppo, ma poi c'è qualcun altro che sta sopra al gruppo, che comanda e che ispira e che ti dice qual è l'obiettivo, ti spiega come raggiungerlo, se ci sono degli intoppi ti spiega come aggirarli, e quindi lavora sia sulla strategia che sulla tattica. Ed è un punto di riferimento, è quello che prende le decisioni, quindi sicuramente. E poi oggi come oggi, con tanti giocatori che sono diventati un po' delle piccole aziende, hanno un brand da promuovere, no? Da valorizzare, quindi è più difficile, ma e quindi diventa ancora più importante l'allenatore, che deve invece tenerli insieme, creare un gruppo e farli giocare tutti per un obiettivo che deve essere un obiettivo comune e non individuale. Proprio da allenatore, pochi lo ricordano, non vincesti poco, eh? Perché hai deciso poi allora di interrompere quella carriera? Perché diciamo che mi licenziò il Chelsea in maniera abbastanza inaspettata per me, e quindi quello fu un colpo, non ero abituato. Poi oggi, sai, uno deve anche andare fiero del primo licenziamento, perché è dopo il primo licenziamento che uno diventa allenatore vero. Però quella volta c'ero rimasto male. Poi scelsi di andare al Watford a fare il manager, proprio in senso, con una responsabilità totale dell'area tecnica, eccetera, non lo trovai molto divertente, e quindi poi arrivò l'offerta di Sky, decisi di fare un'esperienza diversa, e poi mi sono innamorato dell'azienda Sky, un lavoro, cioè mi pagano per guardare partite di calcio, devo dire che non è male, tra le altre cose che faccio quella è la cosa principale, e mi permette di prendermi cura un po' più della famiglia, cosa che un allenatore purtroppo sacrifica sempre, e quindi per adesso va bene così. Poi magari un giorno tornerò in un ruolo magari diverso, farò dirigente, vediamo, adesso mi diverto così. Gianluca Vialli, grazie per essere stato questa sera ospite di Olimpia, la città dello sport. È stato un piacere, grazie mille a tutti. Professor Tirelli, beh, insomma, davvero si è aperto il suo cuore e anche le sue conoscenze calcistiche, eh? Questa sera Gianluca Vialli qui a Olimpia. Mi ha colpito molto questo rapporto così particolare con la Coppa, con la Champions League e quello che questa Coppa rappresenta, no? Il dovere della vittoria per un grande campione che è infinitamente più difficile da gestire del piacere della vittoria, figurarsi poi della sensazione di vuoto che produce la sconfitta. Beh, forse come si può allenare un campione del genere alla leggerezza, se mai è possibile, una volta che si sente l'influsso della Champions League così vicina da conquistare? Ma mi ricollego a quello che dicevo poc'anzi. La nostra cultura prevede la simbiosi o addirittura il sinonimo tra successo e vittoria. In realtà il successo non è solo vittoria. Dobbiamo allenare le nostre caratteristiche dell'ambizione ad un obiettivo, sapendo però che le variabili all'interno di uno sport, quale per esempio quello di squadra, sono elevatissime. Quindi io alleno quella che è la capacità di determinare l'obiettivo e di promuovere il processo attraverso cui voglio raggiungerlo l'obiettivo. Voglio far capire, ed è quello che io per esempio faccio con i miei atleti, che il valore di uno sportivo lo si valuta alla fine di una carriera, nell'ambito di tutto ciò che è riuscito a costruire in termini di vittorie o di sconfitte, ma anche di crescita personale umana. E in questo riusciamo meglio quindi a metabolizzare le eventuali sconfitte, che sicuramente, se capite, comprese come lezioni di vita, ma anche esperienza positiva addirittura di vita, ci possono permettere di assimilarle e di farle anche addirittura amiche per noi. Grande leader, abbiamo sentito Gianluca Vialli in tutte le formazioni in cui ha militato, nazionale, Sampdoria, Juventus, Chelsea, e poi proprio del Chelsea parleremo perché col club londinese lei ha collaborato. Ecco, professore, le chiedo, la leadership, che è certo un valore innato, una dote innata, ma può essere a livello di mental coaching in qualche modo allenata? Cioè, si può costruire, aiutare un giocatore in qualche modo, se non a essere leader, quantomeno a essere sempre più consapevole del ruolo, responsabilità e farne quindi un centro irradiatore per i compagni? In una nostra trasmissione precedente abbiamo detto che possiamo osservare noi stessi come se fossimo degli alberi. Abbiamo detto che chi nasce ciliegio non può nascere, per esempio, quercia. L'uno e l'altro hanno in uguale misura importanza. Il discorso è che io non posso nascere leader e diventare gregario, oppure nascere gregario e diventare leader, perché necessariamente ho delle componenti emozionali, psichiche, culturali, ma soprattutto energetiche di base, che mi portano ad essere quel tipo di albero. Ora, una differenza è tra ciò che voglio essere in ambito di utilità all'interno di una squadra, e quindi l'assunzione di responsabilità, e quello che invece non posso essere. Ad esempio, ho avuto molti campioni, atleti, che non erano dei leader. Io non ho lavorato per far diventare loro dei leader, ma ho lavorato per permettere loro di assumersi delle responsabilità che di solito il leader si assume in modo naturale, il che è differente. Così come io non posso chiedere al leader, veramente alla punta di diamante, di diventare a 360 gradi un gregario. Io posso dire a quest'ultimo di assimilare, aiutare i compagni cercando di essere un gregario. Personalmente nella mia carriera finora non ho mai cercato di trasformare ciò che è un ciliegio e farlo diventare una quercia e viceversa. Vialli e il Chelsea, dicevamo, professore, un binomio forte. Ecco, le chiedo, visto che anche lei ha lavorato al Chelsea durante l'epoca della prima epoca Mourinho con i Blues, ci vuol raccontare che cosa rappresenta ancora oggi Gianluca Vialli nella storia dei Blues? Per chi non fosse andato a Stamford Bridge, lo stadio dei Blues, c'è un muro, si chiama Wall of Fame, che circonda lo stesso stadio. Lì ci sono delle gigantografie che rappresentano i più grandi campioni che hanno dato lustro alla storia del club. C'è Gianluca Vialli. Perché c'è? perché quelle gigantografie rappresentano principalmente tutti coloro che hanno dato esempio di forza, coraggio, leadership ed dedizione. Gianluca Vialli è questo. Gianluca Vialli è anche per noi un orgoglio italiano da mostrare al mondo. Grazie a Gianluca Vialli per essere stato nostro ospite e grazie al professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive e mio compagno di viaggio quest'anno qui a Olimpia. Professore, ci ritroviamo la prossima settimana. Molto molto volentieri, grazie Dario e a tutti i radioascoltatori. Chiusura, ci prendiamo oggi qualche altro secondo proprio per Olimpia, che ha ricevuto un altro importante riconoscimento vincendo il premio nella sezione dello storytelling sportivo a Overtime Festival, il festival della cultura sportiva di Macerata. Un grazie quindi a voi ascoltatori, ai colleghi e ai tecnici registi, tutti fondamentali per questi piccoli grandi successi di squadra.